24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. L'Iraq sembra sul punto di precipitare in una catastrofe politico-militare. I militanti armati dello Stato Islamico in Iraq e nel Levante si sono spinti in tutti i principali centri del nord del paese. Erbil, Kirkuk e Tikrit sono giunti fino a Samarra. Nel frattempo gli Stati Uniti fanno entrare nel Golfo una portaerei. Toccherà a Barack Obama decidere di intervenire con bombardamenti aerei o di droni. L'intenzione dei guerriglieri dell'ISIS è proprio quella di colpire il cuore dell'Iraq. L'esercito iracheno cerca di respingere l'avanzata dei jihadisti sunniti verso Baghdad. I profughi ormai fuggono a centinaia di migliaia dalle zone dove in questi giorni è stata alzata la bandiera nera jihadista. Mentre l'aviazione irachena inizia a bombardare alcune zone di Mosul. Almeno in 500.000 sono in fuga dalle loro case, la metà sono bambini. E l'Iran fa sapere di non escludere la possibilità di collaborare con Washington contro gli islamisti. Le principali operazioni di guerra in Iraq sono finite. Gli Stati Uniti e i loro alleati in Iraq hanno vinto. Il tiranno è caduto e l'Iraq è libero. Generale Carlo Jean, buongiorno, esperto di geopolitica, di strategia militare. Quello che abbiamo sentito era Bush 11 anni fa e diceva: la guerra è finita, abbiamo vinto. Cos'è che non aveva capito? Scusa, non ho capito. No, dico, era Bush che parlava e diceva 11 anni fa, diceva: la guerra è finita, abbiamo vinto. Vabbè, che cosa non aveva capito? Vabbè, il fatto che non aveva a che fare con una nazione omogenea, ma con una serie di tribù divise tra parentesi da rivalità di carattere confessionale, di carattere etnico, a cui si è aggiunto una gestione disastrosa del potere da parte di al-Maliki. Ecco, ma si poteva immaginare di esportare la democrazia come voleva fare lui in un contesto del genere? Guardi, in un contesto del genere non si esporta la democrazia. D'altra parte è ricorrente, basta vedere le reazioni europee delle opinioni pubbliche quando c'è stata la primavera araba, in cui sembrava che fosse iniziato proprio un nuovo ciclo di democratizzazione del mondo. Poi abbiamo visto come è andata a finire. Ecco, ma quindi c'è un deficit di cultura come minimo nell'azione politica dell'Occidente, diciamo dell'America, guidata dall'America? Gli Stati Uniti. Il problema è il fatto che la democrazia è una sovrastruttura, che richiede una struttura, cioè richiede l'esistenza di una nazione, richiede l'esistenza di uno Stato, richiede dei valori etico-politici che sono insiti nel concetto di cittadinanza. Ecco, ma questa azione di Bush non ha funzionato per ragioni militari, politiche o culturali? Ma a mio avviso culturali, nel senso così che è stata un'azione molto ideologica ispirata dai neoconservatori. E poi c'è da dire una cosa: in realtà l'Iraq nel 2007-2008, dopo il surge del generale Petraeus e dell'ambasciatore Crocker, era stato di fatto stabilizzato. È stato il problema fondamentale è il fatto che il governo che è venuto al potere, al-Maliki, ha cercato di monopolizzare tutta la ricchezza e il potere nelle mani degli sciiti e nelle mani sue persone, provocando la reazione degli altri. Ecco, ma guardi, anche questa avanzata travolgente da Mosul verso Tikrit e così via, sicuramente non è stata fatta dall'ISIS, dallo Stato Islamico. E da chi è stata fatta, secondo me? Dalle tribù sunnite. Tribù sunnite che sono state perseguitate praticamente dal regime al-Maliki. Senta, ma sul piano militare oggi Obama sostanzialmente ha dichiarato la sua impotenza, non sa che fare. Ma esiste ancora un'opzione militare in Iraq? Ma guardi, l'azione militare, soprattutto con l'aviazione, non esiste. Esiste l'opzione militare nel senso che il Quds, il gruppo speciale delle guardie della rivoluzione islamica iraniana, possono mobilitare le milizie che sono però milizie di partiti sciiti che sono opposti a al-Maliki, sono quelle di al-Sadr, di Muqtada al-Sadr e di al-Hakim. che sicuramente finiranno ad erodere notevolmente il potere di al-Maliki. Ecco, ma generale Jean, intanto gli Stati Uniti hanno schierato due portaerei a propulsione nucleare nel Golfo, ma possono essere mai un deterrente due portaerei? No, assolutamente. Cioè, a mio avviso un'azione di quel genere lì non si può fermare con l'aviazione, l'hanno visto anche gli americani precedentemente in Iraq, si riesce a fermare solamente creando divisioni nell'interno dell'avversario, mobilitando le tribù a favore dell'azione del governo e nel caso particolare dell'Iraq mobilitando in Peshmerga, cioè praticamente i curdi, a contro l'ISIS. È l'unica speranza. Ecco, Obama ha detto però che il governo iracheno deve risolvere questa situazione da solo. Allora era meglio lasciare Saddam Hussein, forse? Ma guardi, col senno di poi si può dire qualsiasi cosa. Sa, decisione che venga presa ha anche il suo contrario. No, la cosa è abbastanza interessante, sono stati colloqui tra i dirigenti iraniani, i dirigenti turchi e tra gli americani e gli iraniani. Si sta configurando una specie di matrimonio di convenienza in cui tutti coloro che temono particolarmente Al-Qaeda, il radicalismo islamico e così via, fanno fronte comune per cercare di fermarlo. Ma quindi neanche l'interesse per il petrolio che poi aveva mosso, in realtà Bush è stato un deterrente che ha aiutato a risolvere il problema, se ho capito bene. Guardi, per adesso il petrolio non è praticamente stato toccato. La parte nord, che è controllata un po' lì nella zona di Mosul e così via, oppure di Kirkuk dai curdi, che viene portato al mercato internazionale con l'oleodotto. Continua a funzionare. I curdi aumenteranno la produzione. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Pietrangelo Buttafuoco, una domanda? Sì, buongiorno generale, la mia domanda è questa: tutto si è già visto in un prologo e il prologo è avvenuto in Siria. Come giudica lei il fatto che l'Occidente abbia scelto di difendere quelli che in realtà sono il fondamento dell'integralismo e del fanatismo, cioè i ribelli, e che vengano anche diffuse notizie false in Occidente per sostenere quella che poteva diventare un'altra guerra sporca, forse ancora più sporca di quella irachena? Ma guardi, il problema fondamentale è che l'Occidente ha le sue responsabilità, in particolare l'accordo Spike-Picot del 1916, che ha diviso il Medio Oriente in maniera innaturale, tagliando le etnie, tagliando le varie confessioni religiose e così via. In effetto l'ISIS ha un progetto geopolitico abbastanza preciso, che è quello di cancellare i confini che sono stati tracciati. Quei confini, infatti. Mario Secchi, una domanda? Buongiorno. Allora, ma secca, non è che Washington, il disimpegno di Washington sta favorendo l'Iran? Prego? Non è che il disimpegno di Washington sta favorendo l'Iran? Ma l'Iran sicuramente è preoccupato del crollo del regime sciita di Baghdad, che pensava che potesse essere abbastanza stabile, e sicuramente è preoccupato del risveglio sunnita, in quanto teniamo conto che i sunniti sono stati sempre i migliori soldati, anche durante l'impero ottomano, e che tra arabi e persiani corre sempre abbastanza cattivo sangue. Grazie generale. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. A San Patrignano giovedì e venerdì scorso si è tenuto un forum dell'economia positiva, il movimento guidato da Jacques Attali, francese, che si propone di offrire regole ai governi per un cambiamento radicale dell'economia globale a favore di un'economia a dimensione umana. Proposte che verranno portate ai premier europei, a Renzi il 15 luglio, da Letizia Moratti, che è la cofondatrice della comunità di San Patrignano. Professor Attalì, a San Patrignano il tema del dibattito è stato l'economia positiva. Ecco, economia positiva è un sogno, è solo un sogno, o la turbofinanza speculativa è entrata in crisi? Sono vere entrambe, perché l'economia positiva è l'economia che unisce la gente, che agisce in funzione delle generazioni future. Intendo i bambini e tutti quelli più giovani, ma allo stesso tempo siamo un'economia in grande crisi, perché l'economia non è positiva e non interessa che sia una o l'altra. Lei dice, professor Attalì, la generosità nei confronti delle generazioni future è più potente dell'economia di mercato. Ecco, ma come fa a essere così ottimista? Perché io penso che progressivamente sempre più gente desidererà una vita piena di significato. Si renderà conto che non possiamo essere solo individualità alienate, schiave del piacere immediato, ma che il miglior senso che possiamo dare alla nostra vita è fare del bene anche per gli altri. Oh. Professore, lei dice anche che l'economia positiva, per uscire dal ghetto, ha bisogno di una rivoluzione copernicana. Ecco, vede sullo scenario mondiale un leader capace di questa visione? Io vedo nell'economia mondiale molte dimensioni di un'economia positiva senza necessariamente un leader. Prendiamo ad esempio la nascita del capitalismo. Il capitalismo è nato in Italia, a Firenze, a Genova, a Venezia, poi nelle Fiandre nel XII-XIII secolo, e ha fatto esplodere il sistema feudale. E pertanto non possiamo nominare un solo leader del capitalismo nel XII-XIII secolo. È un fiorire di mercanti, di intellettuali, di filosofi, di religiosi che hanno rotto le regole delle corporazioni. E nello stesso modo, l'economia positiva sta per rompere le barriere del capitalismo tradizionale. Professor Attalì, ma chi oppure che cosa ha permesso alla finanza di perdere le sue caratteristiche per diventare invece dominatrice e non al servizio dell'economia reale? Io penso che il fattore che ha permesso questo è stata la mondializzazione senza regole di diritto. Io sono per la mondializzazione, ma una mondializzazione con principio di legalità. La mondializzazione senza regole di diritto è quella in cui tutto il potere è nella finanza senza regole, perché non ci sono regole globali, e così è il caos. L'Italia è un esempio caricaturale. Io direi che l'Italia del Nord obbedisce bene al principio di legalità. L'Italia del Sud rispetta meno il principio di legalità. E se il mondo intero assomiglierà all'Italia del Nord, andrà bene. Se andrà nella direzione dell'Italia del Sud con regole sempre più deboli, beh, allora vedremo una finanza criminale prendere potere e il mondo sarà in un caos totale. Ma perché è stata una globalizzazione troppo veloce? Perché il capitalismo si è affermato in due secoli, qui in 20 anni, in 30 anni è capitato tutto. L'esempio europeo è molto interessante. L'Europa ha costruito un mercato globale, ovvero un mercato aperto, ma allo stesso tempo norme di diritto che progressivamente mettessero in equilibrio il mercato e creassero una democrazia europea, controllando la finanza attraverso regole, in particolare della banca centrale. È importante che la mondializzazione assomigli alla costruzione europea, ovvero una liberalizzazione, come all'interno dell'Europa, ma allo stesso tempo anche una nascita di regole di controllo, come abbiamo fatto in Europa, e alla fine anche una moneta mondiale, anche se è utopico. Professore Attalì, però alla base di questa situazione europea c'è il fatto che l'Europa, forse perché si è data queste regole, è nella stagnazione o comunque un livello di sviluppo molto basso. No, ce n'est pas la raison. La raison principale per la quale l'Europa... Non è a causa delle regole la ragione principale per cui l'Europa ha una crescita più debole. è la fine della crescita demografica dell'Europa. Se noi avessimo una crescita demografica come quella dei paesi del sud o come gli Stati Uniti, che hanno una crescita demografica forte perché sono aperti all'immigrazione, noi avremmo un grande supporto. Ma noi vogliamo avere una crescita forte con una demografia in declino. È impossibile. Un paese che ha una popolazione che diminuisce non può avere una crescita forte. È questa la principale ragione. Ma c'è un problema filosofico del fatto che la finanza è diventata dominatrice rispetto all'economia reale? La ragione principale è che la finanza, per principio, dovrebbe essere a servizio degli altri, perché sono i soldi della finanza che hanno finanziato i progetti degli altri. Ma la finanza, come tutte le attività simili, ha la tendenza a lavorare per se stessa e non per gli altri. E quando uno lavora per se stesso, diventa folle. Per questo la finanza deve ritornare a essere un'attività sotto controllo. E non deve essere un mestiere che permette di fare profitto. Dovrebbe essere un servizio pubblico. Io dico spesso che il mestiere di banchiere deve ritornare ad essere un mestiere con capacità creative, di immaginazione, che crea progetti nuovi. Ma se la finanza non ha regole, essa stessa diventa poi la regola. Come se la finanza non ha de maître, allora elle devient le maître. Professor Attali, perché la cultura di sinistra in Occidente, invece di contrastare una visione finanziacentrica, l'ha assecondata? Perché? Io credo che in Occidente poche persone hanno capito che c'era una differenza tra il mercato e la democrazia. Il mercato è per sua natura mondiale, mentre la democrazia è locale. Un mercato che diventa locale è il protezionismo ed è pericoloso. La democrazia globale è il tentativo che stiamo cercando di fare in Europa. E la sinistra, come la destra, ma la sinistra soprattutto, non ha compreso che il suo interesse è di avere una democrazia forte, potente e transnazionale. La gauche demain, ça sera la mise en place d'une démocratie transnationale. Ma la fine della contrapposizione tra Est e Ovest, la caduta del muro di Berlino, insomma, è all'origine della nascita dello strapotere della finanza speculativa? No, io credo che la caduta del muro di Berlino e tutto quello che ne è derivato sia stato inevitabile. L'affermarsi della democrazia in America Latina, in Africa, tutte queste cose sono cose buone, ma bisogna pensare che con la democrazia si sviluppa il mercato. E ci sono delle differenze, perché il mercato è per sua natura mondiale, tanto quanto la democrazia è per sua natura locale e nazionale. E se uno non è capace di mettere la democrazia allo stesso livello e con lo stesso potere del mercato, allora si va verso la catastrofe. Ecco, professor Attali, lei dice che passare da un'ottica di breve periodo a un'ottica di lungo periodo è necessario per evitare il punto di non ritorno dell'umanità. Ecco, ma qual è il punto di non ritorno dell'umanità? Il punto di non ritorno è quando il mondo crea le condizioni di suicidarsi e le utilizza. Non siamo lontani, sta arrivando da varie parti. La trasformazione climatica, per esempio. Siamo nella condizione che un giovane tra 50 anni vivrà in un mondo rovente. Non siamo lontani dalle apparizioni di tecnologie e armi davvero pericolose, molto difficili da controllare perché sono nelle mani della popolazione civile, che può creare situazioni davvero pericolose. Penso alle armi batteriologiche o chimiche. Non siamo molto lontani quando vediamo che il mondo crea dei robot, degli umani artificiali che progressivamente faranno scomparire l'umanità. Si ha dunque una disumanizzazione e un suicidio dell'umanità che avrà una sua evoluzione. Per cui non sono sicuro di quanto dovremo attendere. Serve un intervento dello Stato nell'economia per promuovere gli obiettivi di lungo periodo dell'economia positiva? Bisogna fare attenzione, perché se noi privilegiamo troppo l'intervento dello Stato, avremo un ritorno al protezionismo e anche alla dittatura. Io credo che la risposta della sinistra sia quella del 1920 del fascismo, che non è morto e dà una risposta negativa ai danni della mondializzazione. Ma professor Attali, lei dice però no alla dittatura del mercato, ma allora da dove si comincia? faut réussir le projet européen. Bisogna riuscire nel progetto europeo. Se riusciamo nel progetto europeo, diamo al mondo un modello di quello che si può fare. Se il progetto fallirà, attraverseremo un secolo peggiore del passato. Il XX secolo è cominciato bene, c'è molta democrazia, evoluzioni positive. Bruscamente nel 1914 il XX secolo è diventato catastrofico per 60 anni. La stessa cosa può capitare ora. Il XXI secolo è iniziato piuttosto bene, ma vediamo dei segnali negativi e dobbiamo evitarli. Per evitare i disastri del XX secolo bisogna organizzare una democrazia, il più ampia possibile, che sia locale, nazionale e mondiale. Ma professore, quali sono gli indici su cui misurare la positività dell'economia? Cioè l'economia positiva, su che indici? Abbiamo creato una lista con tutti i segni di un'economia e seguiamo i segni di un'economia che va nella buona direzione. È positivo un paese dove nascono bambini. Se non ci sono persone, è positivo che molti fondi vengano investiti nell'educazione, che ci siano istituzioni stabili e rispetto delle regole di diritto, che il governo duri a lungo. Soprattutto per questo criterio, l'Italia non è in una buona situazione. Senta, professor Attali, lei predica l'incontro e lo scambio tra generazioni. Quindi la rottamazione è una strada sbagliata? I giovani fanno la rivoluzione in altri modi oggigiorno. Vogliono lasciare le strade tutte sole e senza niente. Sono molto inquieto nel vedere i giovani in Europa che si muovono individualmente, piuttosto che usare la cooperazione per costruire insieme un avvenire. E quindi bisogna tenere insieme follia della gioventù e esperienza degli anziani? Io preferisco la follia della gioventù. Non bisogna mischiare le cose. Oggigiorno abbiamo bisogno della follia della rivoluzione, non della prudenza e della saggezza. Allora ha ragione Renzi che parla di rottamazione degli anziani. Sì, ok. Io parlo dell'importanza di fare in modo che le persone più anziane ritrovino la loro giovinezza e agiscano come se avessero 50 anni in meno. Professor Attali, gli indiani, Sioux, quando dovevano prendere una decisione importante, riunivano i saggi e si facevano una sola domanda e si chiedevano: quello che stiamo per fare sarà un bene o no per le prossime tre generazioni? Bisogna tornare lì per avere il pensiero lungo? È esattamente quello che fa una madre di famiglia quando prende una decisione, quando si chiede se una scelta è buona per suo figlio. Noi dobbiamo tutti ritrovare questa capacità in ogni frangente della nostra vita. Dovremmo chiederci: quello che sto facendo va bene per le generazioni future? Professor Attali, le faccio un'ultima domanda. Innovazione, futuro e economia positiva sono le tre facce dello stesso problema? L'innovazione può essere buona o cattiva. Se fate innovazione per produrre armi, questa non è positiva. Se fate innovazione per ascoltare gli altri e aiutarli a capire, questa è innovazione positiva. Le innovazioni hanno bisogno di empatia, sorriso. Siamo lontani da tutto questo. Mix 24. Io non capisco questo strano amore, ma dovrei fare esattamente come fa un cane buono con il suo padrone. Contro di te che sai tenere banco, coprire con gli stracci un cuore stanco. Più di così non so più. Lunedì di pioggia anche in metropolitana? Lunedì, certo, di nubi, di tempeste. Siccome già mai la stessa acqua corre verso lo stesso fiume, più di così non c'è via d'uscita. È un impeto che si acquieta in un ribollire, quindi è il limite dell'oltrepassare il limite, ed è la canzone perfetta per far sì che un istante diventi un giorno, una settimana, un tempo. E siccome la storia reclama, bussa, e in termini di geopolitica già l'abbiamo sentito, è il tempo in cui quello della spada del guerriero e quello della penna del poeta fanno la stessa strada insieme. Tutto sto giro per dire che pioveva. Ma incredibile. Hai visto come si riempiono i minuti? Certo. Hai capito? La radio la fanno così in molti. Bolle! Mi sento a casa. Buttafuoco a Varese ha fatto di tutto, eh? Cosa c'era a Varese Buttafuoco? Il giorno finale di un seminario di 5 giorni dedicati all'Eurasia. Ieri era la giornata dedicata appunto alla Russia. E c'era il grande? Nikolai Lilin, l'autore di Educazione Siberiana. Tra l'altro bellissima versione cinematografica. E poi soprattutto, giusto per ricollegarmi a quanto dicevo prima, è la persona che più di ogni altro sa far andare insieme la penna del poeta e la spada del guerriero. Ma bisogna che penna e spada sono uguali. Sì. Ok, dopo aver celebrato la madre Russia, siamo a posto. Diciamo, perché noi abbiamo tirato fuori ancora una volta il nostro armadietto di musiche e suoni, il coro dell'Armata Rossa. E perché Putin ha chiesto il pagamento anticipato del gas all'Ucraina. Fin qui siamo alla notizia, diciamo, nuda e cruda, che qualcuno avrà già sentito nei GR, perché di stamattina scadeva l'ultimatum. Però tutto questo è stato preceduto da un'intensissima attività diplomatica di Putin. Insomma, ha avuto una conversazione con Petro Poroshenko, poi ha fatto gli auguri per i 90 anni a George Bush Senior, poi ha telefonato a José Manuel Barroso, poi ha avuto una conversazione con Angela Merkel e François Hollande. Tutto questo per... E tutto questo gli ucraini poi alla fine non vogliono pagare il conto. Tieni presente che la Russia ha offerto le stesse condizioni che aveva dato a Yanukovych e addirittura di fatto ai polacchi, quindi c'è un problemino, diciamo, di prezzo. 2 o 3 miliardi di naturalmente euro. Le forniture per noi non si interromperanno, questo è abbastanza chiaro, i russi non sono così ingenui come qualcuno pensa. Le rivoluzioni, come ripeto, costano. Chi paga? È sempre quello il problema. Allora, andiamo avanti con le nostre bolle. Andiamo avanti. Non so, ti faccio solo un passaggino sugli Stati Uniti per dire che gli americani il problema non ce l'hanno, però hanno trascinato l'Unione Europea in questo caos. Non hanno la preoccupazione del tubo. Perché? Perché hanno toccato il massimo nella produzione petrolifera negli ultimi 44 anni. Questo è tutto il tema vero, cioè lo shale gas che loro usano e noi in Europa no. E quindi, vogliono vendercelo via. E quindi ci hanno cercato di creare dei problemi, e i problemi noi comunque li abbiamo anche in casa. La Quota Rosa ce ne racconta qualcuno oggi. E adesso basta, vado fuori, sempre se trovi il pantaloni e vado ad affogare tutti i piedi. Odio i lunedì. Oggi è proprio vero, lunedì si odia, è un lunedì nero perché tutti, tranne gli evasori ovviamente, pagheranno le tasse. Verseremo allo Stato, secondo le stime, 54 miliardi di euro, chi con la TASI, chi con l'IMU, poi ovviamente c'è l'IVA. Insomma, oggi famiglie, un po' per le famiglie e le imposte, c'è un vero ingorgo fiscale, altro che raccordo anulare, ragazzi. Pensate che per pagare le tasse un imprenditore ci mette 33 giorni. Forse ha ragione Cettola Qualunque? Le tasse. Tasse, non nominare mai più quella parola in mia presenza. Ma che tasse è tasse? Signor Cetto, io qualche migliaio d'euro lo devo dichiarare. Ma non destare sospetti. Tasse? Ma signore, ma che sta succedendo? Uno manca 4 anni e siete usciti tutti di testa. Ragioniere, quante volte ti devo dire che le tasse sono come la droga? Se le paghi una volta anche solo per provare, finisce che ti prende la voglia. Salamino. Salamini di lettura oggi. Dicono, Una legge sulla responsabilità civile dei magistrati li sottopone a un forte stress, vero. Li costringe a lavorare bene e con scrupolo, come fanno i medici in sala operatoria o gli ingegneri quando progettano un ponte. La libertà è sacra come la vita. Dicono, una legge del genere farebbe dell'Italia un unicum. Falso. Una legge che permette allo Stato di rivalersi sui giudici c'è già in Spagna, in Germania, in Francia, in Belgio, in Portogallo. Dicono, in Italia lo Stato sanziona il dolo. Falso. Farebbe bene, scrive Pierluigi Battista sul Corriere Oggi, a leggere Operazione Monte Cristo. È il libro di Lelio Luttazzi, la cui vita fu distrutta nel 1970 da iniqua detenzione non sanata dal proscioglimento successivo, e i giudici, come nell'altro celebre caso, quello di Tortora, furono premiati. E a risarcimento sentimentale noi oggi ascoltiamo Lelio Luttazzi. Ma da quest'oggi ho deciso di cambiare, provando a cantare con voce da rock. Mi faccio sei uova la coppa e come una palma dal ring ti sforno vent'anni di swing. Però devi darmi lo sciocchi e forse è proprio così. Ancora una bolla prima della pubblicità. Ma guarda, al volo segnalo solo una lettera del sindaco di Londra, questo è il Big Ben, Boris Johnson, sul Telegraph a proposito dell'Iraq, la segnalo per questo, dove dice di Blair: sbagliò, fu un errore tragico a partecipare all'invasione. Ma lui lo difende. Fatto, sì, e il fatto che non lo riconosca mi conferma che Blair è diventato completamente pazzo. Ah, lui lo difende. il canzoniere ancora. E le stelle assenti, e non un Dio nella sera d'amore di viola, ma tu nella sera d'amore di viola, ma tu chinati gli occhi di viola, tu ad un ignoto cielo notturno che avevi rapito una melodia di carezze. Mix 24 800 24 00 24, numero l'SMS 349 238 6666. Dopo il giornale radio racconteremo la storia di Amedeo Ghie, il comandante diavolo, e racconteremo le sue avventure nell'Africa orientale alla guida delle bande indigene durante la campagna italiana in Abissinia. Dico una verità, io a un certo momento, dopo quel che ho passato, le botte che ho avuto, tutte le cose, ho pensato, ma forse io rimango qua, mi sposo con questa bella ragazza. Di me diranno che io sono morto, perché ormai non c'è più notizia mia, prima sperso, poi morto. E io finisco la mia vita qui, pescando, stando con questa bella ragazza, avendo qualche figlio, e confesso, e facendo una vita semplice, senza complicazioni, senza politica, senza niente. E io forse, e poi da piemontese fesso, testardo, io ho detto no, io devo andare. Era la voce di Amedeo Ghie, sentiremo la sua storia incredibile dopo il giornale radio. Intanto il Salamino. Strade allagate, metropolitana bloccata, alberi caduti che bloccano e arrivano sulla testa di tutti, e poi laghi ovunque, spazzatura sparsa dappertutto e perfino galleggiante. Chissà come si trovano adesso quei poveri maialini randagi in quel di Boccea a Roma, dove Ignazio Marino, il sindaco, sembra ormai destinato a fare la danza della siccità per consentire un minimo di manutenzione. Sapete, erano stati investiti ben 3 milioni e mezzo di euro per pulire i tombini. Allora, tutti addosso a sto povero sindaco. Allora, bisogna spezzare una lancia a favore di Ignazio Marino, che è bravissimo, che è il più spacchiosissimo, perché Roma l'ha fatta più bella e più grande che prima. Allora, che cosa ce ne frega della metro bloccata, dell'alluvione, degli alberi che cadono, dei maialini poverini che non si sa dove siano andati a fare i randaggi? Certo. Bisogna cominciare a fare un elenco delle cose bellissimissime fatte da Marino. Innanzitutto chiedi, chiedi ha fatto, in giro. guarda, no, te lo dico subito. Ah, le sai già. Ho fatto un elenco lungo. Allora, ha fatto un bellissimo Gay Pride. Poi ha fatto la maratona al Colosseo contro i gladiatori, si è messo lì e pure spento le luci. No. Ha spento le luci in solidarietà. Lo faceva anche Veltroni. Ma sì, ma lui lo fa meglio. Poi ha fatto il Gay Pride. Ma l'ha fatto anche altri. Poi, ma lui l'ha fatto meglio. Poi ha fatto il Gay Pride. Poi va in bicicletta. Ma anche fa Rutelli. tanta bicicletta, fa... ci andava no, anche no, per Rutelli il motorino, inquinante. Lui sempre due ruote sono, ma no, lui è meraviglioso, ha fatto il Gay Pride, poi ha fatto la maratona, poi ha fatto vai in bicicletta, insomma fa tantissime cose buone, però ma com'è che ti fermi a due, tre? Non è vero, è lungo elenco, ha fatto il Gay Pride, ma sai, c'è poco tempo, è solo per quello che non lo puoi appunto. E allora però io tifo per il sindaco di domani. Chi è? Guarda, ascolta. Io sono Romeo, meglio del Colosseo, io fermo non c'è so. C'è anche un giochino linguistico, no? Volendo da Marino a Romeo. Romeo, vabbè. Romeo. E duchessa. E me ne andrò in città. Professor Simonelli. Buongiorno. Buongiorno, è stato un weekend intenso, grande vittoria dell'Italia. Ma lei che cosa ci dice? Che ieri sera il canone era su Rai 3. Lontano da Roma e fino a Londra, che è sconfitta dall'Italia, ma vincitrice del canone, perché la fiction Mr. Selfridge mi convince sempre di più. Una fiction ottocentesca, un po' in novecentesca, un po' in costume, apparentemente frivola, soprattutto nelle puntate di ieri, amori, scene un po' d'appendice, però anche colta, riferimenti alle suffragette, ai pre-raffaelliti, insomma una fiction composita con tante cose, con un bel ritmo, ideata sembrerebbe apposta per il pubblico femminile che in questo periodo non segue il calcio, almeno si dice, poi in realtà lo segue, no? Ma quei prodotti per signore che però sono estremamente convincenti e mi ricorda un episodio del lontano 66, forse lei se lo ricorda, quando Rai 2 si chiamava ancora secondo canale, sì, non sapendo cosa programmare, c'erano i mondiali in va bene che il nostro pubblico insomma, però insomma siamo al 66, professore, andiamo avanti storico, anche però, storico, perché la seconda rete acquistò una fiction francese, bene, per Fagor, il fantasma del Louvre, e ottenne un clamoroso e inaspettato successo. Ma professore, ma lei l'ha visto il programma di Vice Domini su Italia su Canale 5, bellissimo, seconda serata sullo spettacolo? No, non l'ha visto, perché... Beh, io lo consiglio a tutti, perché Vice Domini sta facendo una bellissima cosa. Senta un po' che cosa ho visto io, cosa ho pensato io in questi giorni. E siamo ancora sul 3-3. Questa drammatica partita fra Italia e Germania per l'ingresso in finale. Boninsegna ha saltato, shoot, passaggio, Rivera, rete, Rivera, ancora 4-3. 4-3, gol di Rivera. Allora, professore? E allora, domani ricorre un anniversario storico, che è quello di Italia-Germania 4-3. Ah, sape che speriamo racconto... che ci porti fortuna. Sape che notizia, le racconto vabbè. Questa cosa? Ah, scusi, professore, come... abbiamo Mattias da Venezia per il canzoniere. Mattias? Sì, eccomi qua. Ah, buongiorno. Allora, buongiorno a voi. Allora, hai indovinato? Non lo so, ci provo. Dino Campana, Il viaggio e il ritorno. Bravissimo! Ma dov'è lei adesso? Mattias? Adesso sono in giro per lavoro. Che lavoro fa? Faccio il commerciale. Il commerciale per una ditta? Sì, per un'azienda, sì, lavoro nel settore. Ma Venezia che aria si respira dopo il Mose? brutta? Diciamo di sì, aria cupa, brutta. O perlomeno triste. Piove? Beh, oggi no, ieri sì. Vabbè, oggi per no. Fortuna, grazie, sì, complimenti, grazie complimenti. Grazie. Allora, professore... Da Dino Campana a Gianni Rivera, esatto. Torniamo indietro. Vabbè, sempre cosa artisti sono. Quella sera, quella notte? è successo che per la prima volta andò in onda una partita in tardissima serata, si concluse alle 2 di notte. Si vede che in quegli anni la notte era proibita alla televisione. Se c'era anche un grande evento, veniva trasmesso, registrato il giorno dopo, perché non bisognava turbare il sonno degli italiani, dei lavoratori. Invece quella partita cominciò alle 11 e finì alle 2 con i supplementari, e le piazze si riempirono di italiani col tricolore. Professore, ma lei che ne dice della voce di Sara Tardelli? Sara Tardelli è intrigante, è una bella ragazza, perché qui abbiamo oramai dei fiumi, delle valanghe di SMS per lei. Alberto, The Voice non è più né Sinatra né la Carrà e Sara Tardelli. Bene, grazie professore. Dopo il giornale radio e la pubblicità avremo la storia del generale Ghie, una vita leggendaria scritta da Elisabetta Castana e raccontata come sempre da Marina Milone.